24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. La furia delle acque trascina via ogni cosa, macchine, cassonetti della spazzatura, un divano. Figlia, se non la tirano via muore nel bar, lui se non lo tirano su in casa muore in pizzeria. In questi anni abbiamo dovuto vivere con il fiatone certe emergenze che potevano essere affrontate. Un pezzo di montagna sotto la pioggia battente all'improvviso si è staccato, franando contro alcune abitazioni. Nel piano per il lavoro che presenteremo a marzo ci sarà una sorta di piano contro il dissesto idrogeologico. Il dissesto idrogeologico è una priorità. Non ci sono solo lutti e case che cadono o versanti che franano. Ci sono ponti, ferrovie, autostrade che sono danneggiati dal dissesto idrogeologico. La semplificazione ha molto a che fare con la protezione del territorio. L'82% dei comuni italiani ha zone ad alto rischio idrogeologico. Quasi 6 milioni di persone vivono in aree a rischio alluvioni e frane. Lo schema di decreto legge prevede che il Ministero dell'Ambiente predisponga rapidamente un apposito piano nazionale straordinario per il rischio idrogeologico. Il 9% del territorio ligure è in balia degli eventi atmosferici, così come il 19% della superficie campana. In Sicilia 7 comuni su 10 sono a rischio idrogeologico, in Veneto i comuni sono 327, in Umbria tutti e 44 i comuni, ancora. Ministro Gianluca Galletti, buongiorno. Ministro dell'Ambiente. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Senta, allora ancora. Lei ha detto nel Question Time dell'altro giorno alla Camera, ha detto che ci sono 2 miliardi e 300 milioni di euro pronti per essere spesi, però i cantieri sono bloccati. Da cosa? Sì, io ho detto che ci sono 2 miliardi e 300 milioni, ahimè, fermi da anni. Appunto, fermi da anni. Esattamente, ma sono bloccati da cosa? Sono bloccati da una serie di cose. La prima è che noi in questo paese per troppo tempo abbiamo creduto che molte regole in campo ambientale tutelassero l'ambiente. Non è così. Troppe regole finiscono alla fine per impedire di fare quelle opere che sono necessarie per la tutela dell'ambiente. Ecco, lei in novembre. Allora, in quelle frasi che lei ha fatto sentire, sì. Ce n'è una che mi ha colpito perché io la penso esattamente così. Semplificare vuole dire salvare l'ambiente. E questa è la prima cosa che noi abbiamo fatto, non che dobbiamo fare. Avete fatto quando? Con che cosa? Con l'unità di crisi di Palazzo Chigi? L'abbiamo fatto con quello, ma quella non è una semplificazione, quella inerisce al secondo punto che è l'organizzazione. E per la semplificazione? L'abbiamo fatto prima con il decreto competitività, che è quello che abbiamo approvato prima dell'estate, per intendersi, alla fine di luglio. Sì. Lì noi abbiamo nominato i presidenti delle regioni commissari straordinari, abbiamo dato a loro poteri straordinari, cioè se prima per fare un intervento sul dissesto idrogeologico occorrevano molti permessi di tutti i generi, oggi il commissario straordinario con un solo atto suo può eliminare tutti questi permessi. Quindi i presidenti hanno il potere di commissari straordinari. Prima c'erano dei commissari straordinari con pochi poteri ed erano persone esterne. Mettendo una persona esterna diventa tutto più difficile, perché questa non ha la struttura regionale dove c'è la progettazione, certo, naturale, dove c'è la programmazione eccetera. Questo ha semplificato molto, ma non solo questi, anche altri interventi di semplificazione in questo settore sono stati fatti. Ecco, ma Ministro Galletti mi dice Italia, scusi però mi dice come farete a ottenere che le regioni trasformino i soldi che ci sono e che sono fermi in cantieri? Perché allora, questo poi anche, è il problema. L'abbiamo fatto anche con un'altra norma, che è questa nello sblocca Italia. Abbiamo detto, scusate, ma se ci sono dei fondi destinati a opere che sappiamo che hanno ancora tempi lunghi, perché ad esempio non c'è la progettazione e quindi è ancora tutta da progettare, eccetera, noi definanziamo quegli interventi per andare a finanziare quelli che sono a uno stato più avanzato. per spendere subito le risorse che abbiamo. Questo ha snellito, ha velocizzato molto, perché le regioni, per non perdere i soldi, sono corse anche loro a fare tutta quella progettazione che è indispensabile per fare l'opera. Però, ministro, io ho dei dati su questo. Cioè, questa cosa ha funzionato. Cosa ha prodotto? Cosa ha prodotto? Che più di 1 miliardo di euro, di questi 2 miliardi e 300 milioni, oggi sono già in fase di spesa, quindi si sono aperti dei cantieri. Dei rivoli si sono aperti, ecco, però i cantieri aperti sono pochi, sono molto pochi, e per mettere in sicurezza le zone a rischio di 6.633 comuni italiani ci vogliono anni. Anni e tanti cantieri. Anni, tanti cantieri, tante risorse e soprattutto una cultura ambientale. Ci vogliono una serie di cose. Non pensiamo in maniera un po' gretta che con i soldi si risolva tutto. Naturalmente, le procedure l'abbiamo appena spiegato, se non si semplifica il modo di spegnere. Quindi è semplificazione, soldi. Allora, sui soldi abbiamo detto di questi 2 miliardi e 300 milioni. E poi stiamo facendo, è già pronto, un piano nazionale di contro il dissesto idrogeologico, che è finanziato con i fondi di coesione territoriale. Il mio ministero ha chiesto 5 miliardi su questi fondi, a cui si aggiungono altri 2 miliardi di cofinanziamento delle regioni. Ecco, lei ha parlato delle regioni, ministro. No, aspetti, sì. Tutto questo lo specifico, non in un anno. Certo, in naturalmente, in 7 anni, lo so. Sennò... Lei l'ha detto, in 7 anni entro il 2020, ma il Sole 24 Ore ha scritto, parlando del rapporto con le regioni, ha scritto che nei bilanci regionali la voce protezione ambientale è allo 0,6% del totale. Allora, insomma, c'è un bel equivoco lì, sono parole, insomma, perché se poi è lo 0,6, capisce che questi soldi diventa difficile da spendere. Io ho avuto modo di dirlo più volte in questi giorni. È chiaro che tutto questo, guardi, funziona se c'è un grande patto istituzionale, cioè se noi mettiamo al centro della politica di tutti i livelli istituzionali e al centro della cultura del cittadino la protezione del territorio. Questo è indispensabile, lo dicevo prima, non è una questione solo di soldi. Noi, io la faccia ce la sto mettendo, no? Abbiamo semplificato, certo. Stiamo trovando le risorse, dico con forza che certi errori del passato, come il condono edilizio, non li dobbiamo più fare, che dobbiamo fare, questo aspetta ai comuni, una battaglia contro l'abusivismo. Bisogna però che anche le regioni incomincino a mettere al centro delle proprie politiche la difesa del territorio e quindi impiegare più risorse nella difesa del territorio. Senta, il problema del patto di stabilità, io non mi nascondo dietro un dito, ministro, che questo è un problema, ministro, però è questione di priorità. Ministro, Max da Bergamo, perché abbiamo gli ascoltatori in diretta, Max da Bergamo ci dice di chiedere che cosa ne pensa dell'operato del ministro Clini. Non tocca a me giudicare il ministro Clini, non riesco a capire la domanda. No, è Max da Bergamo, quindi noi abbiamo anche gli ascoltatori che parlano, 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Ecco, ministro, per l'assetto idrogeologico del paese, in seguito a quello che è capitato in Liguria, c'è stato uno scontro molto forte fra il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio. È per esigenze di definizione di responsabilità oppure per cosa? No, credo che non ci sia. Guardi, l'importante in questo momento è l'assunzione di responsabilità da parte di tutti i livelli istituzionali. Sicuramente nel passato, ma non in Liguria in particolare, in tutte le regioni, ma è stata anche una cultura che ha pervaso un po' l'Italia, c'è stata poca attenzione alla tutela del territorio. Questo è indubbio. Io credo che le parole del presidente Renzi andassero in questa direzione, a dire qui si volta pagina. Il presidente della regione sta svolgendo un suo compito in Liguria, che, come ricordavano i dati che anche lei dava sì, prima, è una regione molto a rischio. Io capisco anche tutte le difficoltà che incontra. Ecco, senta che cosa capita a Sarno. Abbiamo ripulito alcuni canali del consorzio di bonifica che poi si innesta nel fiume Sarno. E quanti eravate? Abbiamo portato un centinaio di bambini delle scuole di Nocera e Sarno. È difficile coinvolgere le persone nella cura del proprio territorio, che poi è l'elemento di partenza per difenderci dalle inondazioni. Con i bambini delle scuole non è difficile, è un po' più difficile con gli adulti. E in quali condizioni avete trovato il territorio che avete tentato di in qualche modo di ripulire? Allora, i canali abbiamo trovato molti rifiuti, molto materiale accumulato da smaltire. Poi noi siamo intervenuti con gli adulti anche nella montagna di Nocera, dove c'è stata una frana nel 2005 che ha provocato 3 morti, e anche lì abbiamo trovato molti rifiuti, molto materiale abbandonato. Quindi un territorio abbastanza in condizioni precarie. È un territorio che ha rischi importanti di frane. A Sarno c'è stata quella del 98. Ecco, nel 98 c'è stata quella tragedia, quella alluvione che ha causato, lo ricordo, 160 morti. È possibile che si ripeta una cosa del genere? È possibile, a Nocera è possibile, perché dopo il 2005, nonostante siano stati stanziati 7 milioni di euro, non è stato realizzato nessun intervento. Cioè, stanziati e non spesi, come sempre. Come sempre, tra l'altro senza nessun ricorso di nessuna ditta, nessun ricorso. Quindi non ci sono neanche ricorsi al TAR, ci sono proprio soldi che stanno lì e dormono. Sì, c'è un ritardo nel trasferimento di 1 milione di euro dalla regione al comune per un appalto già aggiudicato. Insomma, dobbiamo aspettare la prossima alluvione. Noi speriamo di no, tra l'altro a Sarno c'è un'altra situazione preoccupante. Ci sono stati spesi oltre 350 milioni di euro per fare opere imponenti, e mancano invece pochi milioni di euro per fare la manutenzione ordinaria. A distanza di 10 anni nei canali sono cresciuti gli alberi. Cioè, ci vorranno i bambini, bisognerà andare con i bambini di Legambiente. È un po', potremmo fare molto poco con i bambini, però lo faremo. Va bene. Ci vorrà allora la prossima alluvione per scoprire che i milioni stanziati non sono stati spesi. Grazie, ingegnere. Grazie a lei. Ecco, questa è una storia di Legambiente. È molto significativa, perché il fatto che addirittura non ci sono neanche ricorsi, cioè ci sono soldi e si fanno delle opere grandi, ma la pulizia, il drenaggio, noi sappiamo che è fondamentale, ministro, non capita. Cioè, è difficilissimo capire perché capita così. Accettarlo è molto difficile. È quello che dicevo anche prima, no? Noi per troppo tempo non abbiamo avuto la cultura del rispetto del territorio, e l'abbiamo fatto anche in maniera molto evidente. Questo è un caso, ma quando io vado in certe zone e vedo delle costruzioni negli alvei dei fiumi, non è la stessa cosa. Cause di questa tragedia è stato l'abusivismo edilizio? Anche, assolutamente. 50 anni di politica quello, sotto accusa definitiva. Tutto quello che ha a che fare con lo stupro del territorio produce dissesto idrogeologico. Allora, su diciamo, questo non c'è nessun dubbio. Allora, quando io dico mai più condoni edilizi, lo dico però proprio per questo, perché non ci possiamo più permettere quella roba lì. Lo vediamo oggi, ma guardi, io sono preoccupato e non voglio fare dell'allarmismo. No, lo faccia, se bisogna essere preoccupati, facciamolo. No, sono preoccupato anche per quello che potrà accadere in futuro, perché i cambiamenti climatici oggi non sono più la visione di qualche matto, I cambiamenti climatici oggi sono scienza, quindi noi non avremmo un'attenuazione di quelle alluvioni che vediamo oggi, ma avremmo invece un preoccupante aumento, e non possiamo chiuderci gli occhi e dire vabbè, saranno problemi dei nostri figli, intanto però, perché non è vero. perché i tempi sono più brevi di quelli che avevamo ipotizzato, e in più sarebbe veramente irresponsabile, ecco, però, un atteggiamento di questo genere. Ecco, però la cosa che colpisce dell'esperienza di Sarno è che neanche il drenaggio dei fiumi si può fare. Riesce a fare neanche quello, cioè, quando dico che va messo al centro delle politiche sia regionali che comunali la tutela del territorio, dico proprio questo. Poi con responsabilità so benissimo che c'è il problema del patto di stabilità, che c'è il problema della mancanza di risorse, sono tutti problemi che conosciamo. Insomma, bisogna però che noi, il governo i problemi li deve risolvere per definizione, però ministro deve provarci, almeno insomma. Sto esattamente dicendo quello che abbiamo fatto fino ad oggi, certo, no? Che non mi sembra poco nel trovare le risorse, ecco, soprattutto ministro, nel mettere al centro del programma elettorale, del programma del governo, questa roba qui. Secondo me quella le è scappato elettorale, ministro. Senta, la Liguria è diventato purtroppo Emiliano Romagnolo e si vota in Emilia Romagna. Si vota tra poco. Senta, la Liguria, dicevo, è diventata il simbolo della fragilità del territorio. Lo scandalo è che, per esempio, il torrente Bisagno è stato intubato negli anni 20. Ecco, non si è fatto niente per il Bisagno, sempre per colpa dei ricorsi al TAR, non credo. Diciamo che per molto tempo non si è fatto niente anche per quello, e poi appartiene alle opere non fatte per anni in questo paese. Senta, no? C'è Mario Secchi che ha una domanda da farle. Buongiorno ministro. Buongiorno. Allora, ma secondo me c'è un problema di assetto istituzionale che sta venendo fuori, ma non è che si è sbagliato a rottamare le province a metà, e forse erano da rottamare prima le regioni, visti i risultati sul territorio? Beh, oddio, non è che con le province funzionanti le cose siano andate bene negli ultimi anni, quindi quell'assetto istituzionale non va bene. Io sono convinto di un'altra cosa, Secchi, che non va bene il titolo quinto della Costituzione. Esattamente, quello, sì, questo. È quello d'accordo. Che non va bene. Noi dobbiamo decidere una volta per tutte chi fa cosa. Poi che siano le regioni, che sia lo Stato, io dico che dovrebbe essere lo Stato, però insomma bisogna che sia preciso chi ha le competenze, potere e responsabilità. Chi fa cosa? Quindi la responsabilità in capo a un ente che se ne assume la responsabilità. Ministro, ci abbiamo Emilio da Caserta. Emilio, scusi se interrompo, ma ci abbiamo Emilio da Caserta per una domanda. Emilio, una domanda al ministro velocissimo. Sì, no, più che una domanda è una considerazione. Io sono tecnico di un consorzio di bonifica. Ecco, al ministro vorrei dire, sono d'accordissimo su chi fa cosa. Ora, i consorsi di bonifica per missione aziendale sono gli unici che si occupano di difesa idrogeologica tutti i giorni. Io in questo momento sono in campagna con lo scavatore e con i miei operai, stiamo pulendo un canale che rischia esondazione. Però i consorsi di bonifica, diciamo, per statuto sono degli enti pubblici economici, quindi non ricevono un euro dallo Stato né dalle regioni. E quindi? Il sottoscritto con i miei operai sono 4 mesi e mezzo che non abbiamo lo stipendio, ma siamo qui a lavorare per evitare che questo canale esondi. Okay. Però paradossalmente dipendiamo dai ministeri dell'agricoltura e gli assessorati regionali all'agricoltura. Cioè, ci vogliono volontari dappertutto, abbiamo capito. Ministro, questo purtroppo è un urlo che si capisce. Sì, i consorzi di bonifica prendono i soldi dai proprietari, non è che non prendono i soldi da nessuno, ce ne sono alcuni che funzionano molto bene, altri che hanno più difficoltà. Pietrangelo? Io dico che sarebbe, buongiorno, sono Buttafuoco, sarebbe molto più semplice ricominciare da dove Araldo di Crollalanza aveva smesso di operare. Il consorzio delle acque era un impegno su cui lo Stato italiano aveva profuso dappertutto, garantendo la sicurezza. Perché tutto questo non c'è più? Io ho idea che noi non abbiamo bisogno di altri consorzi, di altre infrastrutture. Noi abbiamo bisogno solo a questo punto di fare le cose e, ripeto, di stabilire chi le fa, cioè il fatto di avere costituito quella cabina di regia, questo l'abbiamo detto, infatti, che è una cosa molto tecnica, va proprio in questa direzione, di coordinare tutti gli enti che oggi operano in quel settore. Se poi un disegno strategico si può sempre pensare, però noi il problema ce l'abbiamo Ministro, non è l'ultima, che ce l'abbiamo ministro, un'ultimissima cosa a proposito dei disastri ambientali, non solo. Ieri la Cassazione si è pronunciata sul processo Eternit, ha annullato la sentenza della Corte d'Appello. Lei ha un giudizio su questa sentenza? Una grande tristezza, le sono sincero. Io ho incontrato poche settimane fa il sindaco di Casal Monferrato, abbiamo avuto un lungo colloquio, siamo anche intervenuti con lo Sblocca Italia per la rimozione dell'amianto in quel comune in via straordinaria. Guardi che lì il lavoro è ancora lungo. No, è lungo, i morti sono tantissimi, quindi è il problema. Ancora si vedono so bene, gli effetti fino di quello al 2020 che è stato fatto allora. Il peggio deve ancora arrivare. Se non interveniamo, questa roba va ancora avanti. Allora forse il problema della prescrizione c'è, no? Una grande tristezza proprio. Ministro, una grande tristezza, poi so che ai politici non tocca commentare le sentenze della giustizia, io però nel cuore mio lo dico, una grande grande tristezza. Grazie Ministro, grazie del suo intervento. Ecco, la condanna a 18 anni, l'abbiamo detto, per il processo Eternit è prescritta, il risarcimento previsto per le 983 parti civili è svanito. Il Pubblico Ministero di Torino, Guariniello dice il reato c'è, apriremo il capitolo degli omicidi. Questa è una brevissima sintesi, quella che sentirete, ascolterete adesso, della puntata Senza Respiro di Marina Liuzzi, puntata che nell'intero andrà in onda nei prossimi giorni. Se basta vivere in una città per meritarsi di morire, noi ce lo siamo meritato. Ce lo siamo meritato, mi chiedo. Non credo e spero che ci sia ancora una giustizia, che non siano solo i soldi a parlare. In nome del popolo italiano, il Tribunale di Torino dichiara De Cartier, De Marchen, Jean-Louis e Schmidheim e Stefan colpevoli dei reati loro contestati al capo A della rubrica. Li condanna alla pena di anni 16 di reclusione ciascuno. Imputati Stefan Schmidheim e Louis De Cartier, lo avete sentito, vengono riconosciuti colpevoli e condannati a 16 anni di carcere ciascuno per disastro doloso permanente, omissione dolosa di cautele antinfortunistiche per lo stabilimento di Casale Monferrato e di Cavagnolo. Ma se dell'amianto oggi si discute nelle aule di giustizia, c'è stato un periodo non molti anni fa in cui era considerato uno dei simboli del progresso che avrebbe portato benessere e ricchezza. Sono i favolosi anni 60. Negli Stati Uniti, ma anche nelle case italiane, entra un nuovo materiale da costruzione, moderno, flessibile e che dura per sempre. Vini l'amianto con tutto il fascino di un pavimento artigianale in blocchetti di pietra. È l'asbesto, più noto come amianto, dal greco amiantos, puro, immacolato, incorruttibile. L'Italia è stato uno dei principali consumatori con quantità molto elevate, oltre le 100.000 tonnellate anno, sicuramente per tutti gli anni 80, quindi grandi quantità prodotte nazionalmente. Il minerale più usato nel mondo, un filamento sottile ma resistente, estratto da rocce millenarie. Polvere di amianto grezzo che, unito al cemento, diventa cemento amianto, materia prima a bassissimo costo e comunemente chiamato Eternit. È nei pannelli delle pareti, nei soffitti, nei tubi che trasportano acqua, nei fili elettrici, nei rivestimenti, nelle canne fumarie e nelle famose coperture ondulate. Per molti anni nel nostro paese l'amianto è stato considerato un'autentica benedizione perché era un materiale che aveva ed ha ovviamente straordinarie qualità. Difende dalla umidità, dal rumore e dal fuoco soprattutto. E proprio le sue caratteristiche isolanti e di resistenza al fuoco fanno dell'amianto un materiale dai mille usi. Dai sipari dei teatri alla coibentazione di treni, navi, aerei, dai componenti dei freni delle auto alle tute ignifughe dei vigili del fuoco. L'Eternit per loro era una fonte di vita, qualcosa di fantastico che ti cambiava la vita. Un vero e proprio sogno dunque che si trasforma in un incubo, un dramma che si svela poco a poco nel corso del tempo. Sono gli anni 76, mi accorgo che entrando, quindi varcando il cancello dello stabilimento, sul lato sinistro, in questa grande pila di marmo, ci sono sempre dei manifesti funebri. Osservo di anni 48, di anni 52, di anni 56, e la domanda mi nasce un po' spontanea. Io, ma come? Ma si muore? Ma qua nessuno arriva alla pensione. Il mesotelioma è un tumore maligno che colpisce il mesotelio, una membrana che riveste parete toracica, polmoni, diaframma e pericardio. Un cancro raro che può estendersi ovunque. La svolta arriva nel 2004. Dalla Procura di Torino, il magistrato Raffaele Guarignello avvia un'indagine sullo stabilimento Eternit di Schmidane in Svizzera. Pensare che c'era la possibilità di aver giustizia è stata una cosa molto importante. Scrive il presidente della Corte, Giuseppe Casalbore, nelle motivazioni depositate il 14 maggio 2012. Emerge tutta l'intensità del dolo degli imputati, perché sia De Cartier che Schmidaini hanno continuato e non si sono fermati, né hanno ritenuto di dover modificare radicalmente e strutturalmente la situazione. E come abbiamo detto, invece, ieri la Cassazione si è pronunciata e ha annullato la sentenza della Corte d'Appello, ma il PM di Torino Guarignella ha detto: il reato c'è, apriremo il capitolo omicidi. E quindi staremo a vedere. Mix 24. Roberta La Pistoia ci chiede quando va in onda la puntata sull'amianto. La stiamo completando e sicuramente nella prossima settimana. Canzone. Left a bag of bones, a trail of stones, for to find my way home now. As the air grows cold, the trees unfold. Pietrangelo, oggi? Oggi perché capita di lasciare un mucchio di ossa e farne un sentiero di pietre attraverso cui trovare la strada, e quindi si incontrano bende, pantaloni, sorsi di birra, belle pance di ragazze incinte e una gallina che becchetta sulla banchina d'arrivo dei vagoni. E dalla folla dei pendolari arrivano fisarmoniche, sorrisi, palloncini, le coppie ballano, si abbracciano, ci sono dei marinai, perché c'è sempre il mare in agguato in città, che fanno gli spiritosi col sedere delle signorine, e poi l'aria diventa più fredda e la verità si sveglia. Allora Mario, dopo le esperienze televisive, cosa bolle nella tua pentola? Vai. Che boccaccio. Questo è un pezzo straordinario dei Daft Punk, si chiama Within, un intro di pianoforte tra l'altro molto bella. E vabbè, era un po' così, un po', no? Soft stamattina. Sì. E vabbè, ma anche materie prime, un po' più hard invece questo argomento, ma molto interessante. C'è un'indagine del Senato americano che bacchetta pesantemente Goldman Sachs, JP Morgan e Morgan Stanley. Secondo questo report manipolavano i prezzi delle materie prime e si esponevano ed esponevano gli investitori al rischio dei disastri ambientali. Oggi siamo in tema. Le banche, infatti, no? Abbiamo un filo conduttore. Esatto. Le banche replicano di no, però il Senato americano dice che hanno coperto 15 miliardi di dollari di perdite. In ogni caso, il motto è questo. Pensa alla grande, sii ottimista, non dare mai segni di debolezza, mira sempre dritto alla gola, compra poco e vendi a molto. La paura è un problema che non ti riguarda. Allora, vabbè, questa era una poltrona per due, se lo ricordano tutti. E insomma, Giovanni, sono le 10 meno qualcosa e io direi che è il tempo di prendersi un caffè. Caffè, Dio benedica Pino Daniele per averci dato questa splendida canzone, no, Buttafuoco? Sì, come no? Vabbè, non è Battiato, lo so, non è Francesco De Gregori, nostro amico, ma occhio al prezzo del caffè. Prima l'assenza di pioggia in Brasile, poi le piogge, insomma, un tempo molto difficile per le piantagioni. Rallentamento dei consumi di caffè in Germania e in altri paesi europei stanno spingendo su il prezzo. Negli Stati Uniti, che sono grandissimi consumatori di caffè, non sanno fare l'espresso, ma lo consumano tanto caffè, e la cosa ha avuto un impatto pazzesco sul mercato. Tanto che Folgers, uno dei primi marchi del settore, ha avuto seri problemi con i profitti che sono andati giù nell'ultimo trimestre. In Italia, ragazzi, pensateci, in Italia il caffè costa tra gli 80 centesimi e un euro, cioè convertite in vecchie lire. 2000 lire a caffè. 2000 lire a caffè, signore, il caffè è caro, carissimo. È carissimo. Salamino! Salamini fotogenici! Allora, Renzi ha deciso di sporcare la propria fotogenia e dopo essere stato tra gli angeli del fango a Genova, dopo aver attraversato Parco Lambro a Milano in canotto, dopo aver visitato con la senatrice Taverna gli angoli più roventi di Tor Sapienza, che è il quartiere di Roma in rivolta, Matteo Renzi, verosimilmente accompagnato dal koala australiano, perché se l'è portato dall'Australia, ormai stanno sempre insieme. E gli regalano. No, perché i koala si sono convinti delle ragioni dei rottamatori. Vogliono, stanno facendo una guerra contro i canguri, una cosa che... Insomma, il Corriere della Sera, che è molto attento, dice che Matteo Renzi va per le spicce, decide di affrontare la realtà e si presenterà oggi in Emilia, tra gli alluvionati. Sarà ospite del sindaco Pizzarotti, quello che una volta era diciamo, che è pentastellato, però scomunicato, ma siccome tutta la fatica della fotogenia, insomma, deve essere sporcata di realtà, sapete che cosa ne è venuto fuori? Che adesso lui in Campania, alle regionali, dove ci saranno le elezioni, insomma, proprio per dimostrare che non è fighetto, candideranno un uomo del, come si dice, CCD, UDC, quello di Alfano, come si chiama? Non lo so, io feci un titolo 10 anni fa, il CCD non suona più, però non mi ricordo. Col partito di Alfano. Però l'ultimo è questo, ho saputo che è riuscito a convertire alle ragioni della meraviglia renziana perfino un gufo come Lino Patruno, che gli canta questa canzone. Sono un non grazioso e bello, sono Fortunello, sono un non grazioso e sano, sono un aeroplano, sono un uomo assai terribile, sono un dirigente. Sono un uomo eccezionale, sono un figlio naturale, sono un uomo della riserva, sono il... Mix 24. Una bolla, Mario. Vai. Beh, insomma, non è male sta musica, È un bel rap profondo, Yahoo! Perché Yahoo? Perché, insomma, sono le ultime dal web. E, insomma, voi quando navigate avete dei browser per navigarci, no? Bene, Firefox, che è uno dei principali e che genera 100 miliardi di ricerche all'anno, sarà da dicembre il motore di ricerca ufficiale di Yahoo e abbandonerà Google. Questo è un grosso colpo di Marissa Mayer per Yahoo. Naturalmente questo non so se basterà per salvare Yahoo, perché comunque le difficoltà ci sono, esistono nel business model di una compagnia così grande, e anche per salvare la poltrona Mayer. Certamente è molto aggressiva e si sta muovendo con tenacia. Vedremo che cosa succede. E vedremo. Intanto Salamino. Salamini cinematografici, Scicli e senza cinema. Stiamo parlando di Scicli, provincia di Ragusa, una delle città più belle, patrimonio dell'UNESCO, e la dice lunga, lunghissima, nell'Italia dove i teatri schiattano per asfissia finanziaria, chiudono le librerie e la gente non può andare al cinema, non tanto per intrattenersi, ma perché lì è economia e commercio. Allora, il cinema non può aprire a Scicli perché mancano due firme, quella dell'agibilità dell'impianto e la presentazione della scheda tecnica, che deve essere fatta dal comune. Cose grosse. Cose grosse. molto bene, perché che cosa è successo? Che lì vengono girati tanti film, certo. È la patria anche del Montalbano, e soprattutto lì che cosa è successo? Che il gestore ha chiesto il risarcimento danni al comune per la mancata proiezione di Andiamo a quel paese, il film di Ficarra e Picò. Giusto. Economia e commercio e il cinema, a maggior ragione quando una città meravigliosa come Scicli si deve permettere il lusso di avere il cinema aperto e quindi dedica a tutto questo destino buttanissimo. Ascoltate. E contura Sicilia con l'autonomia, io pure a Mezzia e finem in carestia. Che bella la Sicilia, che grande ammirazione, per ogni elezione sforna clienti d'eccezione. Così parte la favola, c'era una volta un re, sa sa sa. Vabbè, e oggi raccontiamo una grande storia imprenditoriale, la storia di Pietro Barilla. Pietro Barilla ha dato all'Italia di un'immagine di grande severità e serietà nel suo campo, però la cosa straordinaria che forse non si conosce abbastanza è stata la grande ammirazione che Pietro Barilla ha avuto per gli uomini e le donne di cultura. Per un uomo che era legato molto alla sua industria, avere questa apertura verso il mondo della cultura ne faceva uno dei soggetti che oggi vorremmo avere tanto nel nostro paese. Ecco, per chi non l'ha riconosciuto, naturalmente era Riccardo Muti che diceva la sua opinione su Pietro Barilla, il Pietro Barilla mecenate. Dopo il giornale radio, Marina Milone racconta la storia di Pietro Barilla, ma per finire il canzoniere. Non so se la fiamma pallida fu dei capelli il vivente segno del suo pallore, non so se fu un dolce vapore, dolce sul mio dolore, sorriso di un volto notturno. Guardo le bianche rocce, le mute fonti dei venti e l'immobilità dei firmamenti e i gonfi rivi che vanno piangenti e l'ombre del lavoro umano curve là sui poggi al getto. 800 24 00 24, oggi o domani indovinate, 349 238 6666, l'SMS. E abbiamo un consiglio. Dudu no, è un cane? No, è diventato un koala. È un nostro ascoltatore. Geniale. 1950 di Minghi, per chiudere. Colorano le nostre vie, i nostri giorni di primavera, che profumo.